quanto riguarda le sinusiti, ovviamente le due acque principali, quelle che vengono usate proprio in queste due tipologie di sinusiti che diceva il dottor Franzetti, sono le acque sulfure, che sono molto usate, e le acque salzobromoioliche. Sono due tipologie di acque diverse che si trovano ovviamente in stazioni termali diverse, differenti. Quindi abbiamo un'azione sia terapeutica e abbiamo anche un'azione cosiddetta preventiva secondaria, perché una buona azione con le terme riduce sicuramente sia in quantità sia in qualità le ricadute, le riacutizzazioni. Le acque sulfure sono indicate soprattutto per un'azione mucolitica, no? C'è l'idrogeno solforato, che quindi ha un'azione specifica proprio su quelle sinusiti che sono forme produttive, forme catarrali, sì. Catarrali mucose e mucopurulente. Quindi lo zolfo in questo caso agisce in questo senso, ma anche un'azione detergente, anche un'azione oltre che antinfettiva e anche di stimolo della produzione di immunoglobuline locali, quindi di anticorpi locali.